24. La storia. È stato uno dei politici più ammirati del mondo, uno dei più acclamati e, secondo alcuni, l'uomo più celebre del pianeta. Vorrei poter portare nella mia tasca ognuno di voi e tornare tutti insieme in Sudafrica. Agli occhi dei giovani di tutto il mondo, ha incarnato il trionfo gioioso della giustizia sulla brutalità, della speranza sulla rassegnazione e della vita sulla sottomissione. Nel XX secolo nessun politico come lui ha saputo esaltare questi valori e dar loro un nuovo significato. South Africa shine! Mai, mai, mai più dovrà accadere che questo nostro meraviglioso paese veda l'oppressione dell'uomo su altri uomini. Nessun politico meglio di lui ha conosciuto, per averlo sperimentato sulla propria pelle, il significato della parola oppressione. Nel suo paese l'oppressione era alla base di un sistema politico centrato sul razzismo. L'apartheid, il risultato dell'ideologia dei primi coloni inglesi e olandesi, i cosiddetti Afrikaner. Per 3 secoli, pur essendo solo una minoranza, gli Afrikaner, in quanto bianchi, hanno vissuto in posizione di predominio ed egemonia rispetto a tutti gli altri abitanti, neri, indiani e meticci. È stato lui, insieme ai suoi compagni di lotta, ad abbattere per sempre l'apartheid. Ma la vittoria ha avuto un prezzo: 27 anni di carcere. Pastore, minatore, pugile, avvocato, sorvegliato speciale, primo presidente nero del Sud America riconciliato. Il suo nome è Nelson Mandela, classe 1918, il leader politico più ammirato e acclamato al mondo, un'icona del XX secolo. Dall'impegno dell'American National Congress, nato per difendere la maggioranza nera sudafricana, alla battaglia per l'abolizione dell'apartheid. Il razzismo di Stato. Nessuno come Mandela ha saputo incarnare il trionfo dei deboli sui potenti, del diritto sulla forza e della speranza sulla rassegnazione. Noi oggi su Mix 24 raccontiamo la sua storia, la storia di un uomo che ha vissuto in prima persona l'oppressione e la negazione dei diritti umani nel corso di 27 lunghi anni di carcere, ma è anche la storia di un eroe mite e inflessibile al quale il destino ha davvero concesso di cambiare un pezzo del mondo. 18 luglio 1918. Nelson Mandela nasce nel Transkei, una provincia agricola molto povera nel cuore del Sudafrica. È figlio di un capovillaggio Amveso. Appartiene alla tribù Tembu, nella nazione Xhosa. Suo padre ha 4 mogli che, secondo la tradizione, occupano ciascuna una diversa capanna. È un uomo dotato di carattere. Per una questione di bestiame, tiene testa al giudice coloniale, con il risultato di una multa immediata e della perdita di tutto. Della sua posizione di capovillaggio, dei suoi beni e del suo rango sociale. Torna così a fare il contadino, mentre il giovane Nelson diventa un pastore. A lui, tuttavia, bastano la sua innocenza di bambino e le lunghe giornate trascorse a giocare sulle colline rocciose del villaggio di Kuma. È stata questa la sua scuola di vita. Una scuola in cui le aule sono spazi infiniti, su cui correre a perdifiato con i suoi cugini pastori. Ma anche in quei giochi già si intravede uno dei tratti più caratteristici della sua personalità. Fare tutto, di qualunque cosa si tratti, con la massima serietà. Mandela affrontava tutto con grandissima serietà. Era molto attaccato al suo bestiame e non voleva che andassimo a dormire se anche un solo capo del branco non fosse ancora rientrato. Era tranquillo solo una volta ritrovate tutte le bestie. Solo allora si rilassava. A 9 anni, Nelson Mandela perde il padre. Il re del villaggio di Nkekesweni, in onore di suo padre, decide di allevarlo insieme al proprio figlio, che si chiama Justice. Mandela era diventato il figlio preferito del suo padre adottivo e di tutti gli anziani. All'epoca era già molto dinamico e soprattutto molto bravo in tutto quello che faceva e molto rispettoso nei confronti del re e di tutti i saggi. Era inevitabile che Justice, il figlio naturale del re, venisse sopraffatto da una personalità così forte come quella di Mandela. Poco a poco la sua vita comincia a cambiare. Nelson Mandela viene educato secondo la cultura di corte e preparato a governare un giorno il suo popolo. E nella tradizione locale la ricerca del consenso costituisce l'arte della politica per eccellenza. È un principio che Mandela non dimenticherà mai. La prima cosa che bisogna capire di Mandela è che lui era un aristocratico. Molta gente non seguiva Mandela solo per le sue idee politiche, quanto piuttosto perché era anche un capo. Nella sua storia è un elemento fondamentale. Gennaio 1934. Nelson Mandela ha 16 anni, l'età in cui un ragazzo è ormai pronto a diventare un uomo, l'età della circoncisione. Il re fa organizzare la cerimonia secondo una ritualità immutabile. Per molto tempo il giovane Mandela non riuscirà a perdonare se stesso per aver tardato alcuni secondi sopraffatto dal dolore prima di lanciare il grido tradizionale Ndi Yindoda, sono un uomo. Al termine della cerimonia viene dato fuoco alla capanna in cui ha abitato. La sua infanzia scompare così simbolicamente tra le fiamme. Il re ha in serbo grandi progetti per il suo avvenire. Mandela viene mandato a studiare nelle migliori scuole del Transkei. Dapprima nel collegio di Clarkeybury, dove però viene preso in giro per le sue origini contadine. Poi a Helltown, il più importante liceo per studenti neri a sud dell'Equatore, dove ancora oggi la sua presenza resta un ricordo indelebile. Origini contadine, talento del leader. Su Mix 24 raccontiamo la storia di Nelson Mandela. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Nelson Mandela. Siamo negli anni 20 e Mandela frequenta il collegio coloniale britannico di Hilltown. All'epoca gli studenti di colore sono accettati solo nelle scuole religiose. Nelson Mandela ha 20 anni. È la sua prima fotografia. Lo sguardo è serio, il portamento altero, il viso determinato. Il re gli regala un completo all'occidentale. Ha deciso che il giovane dovrà studiare all'Università di Fort Hare, nella provincia di Città del Capo, la sola in Africa che accetti studenti di colore. Mandela si iscrive alla facoltà di giurisprudenza. È in questo ateneo che si crea l'elite nera, che si sogna un mondo migliore, che si parla di politica, ed è qui che nasce la consapevolezza di appartenere ad una comunità molto più vasta del proprio clan o della propria etnia, la comunità dei non bianchi. Un giorno, in qualità di delegato degli studenti, Mandela ha uno scontro con l'amministrazione scolastica sulla qualità del cibo. Come immediata ritorsione, Mandela viene espulso. A quel punto, sembra non avere più prospettive. Il re è infuriato. Sceglie per lui una moglie e gli ordina di tornare immediatamente al villaggio. La risposta del giovane Mandela è inimmaginabile e senza precedenti. Il giovane, infatti, rifiuta. Insieme a Justice, il figlio del re, ruba alcuni capi di bestiame per comprare i biglietti del treno. I due ragazzi si mettono in viaggio verso l'ignoto, verso la libertà, verso il gran mondo, verso Johannesburg. È una decisione che cambierà il corso della storia. Per sopravvivere, Mandela trova lavoro come guardiano in una miniera d'oro. Inizia a prendere coscienza dell'ingiustizia, della discriminazione, dello sfruttamento, dei salari da miseria. Eppure il suo paese è molto ricco. Il sottosuolo trabocca di carbone, oro e diamanti. Ma i soli a beneficiarne sono i bianchi, che pure sono soltanto il 20% della popolazione. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, molti di loro tentano, senza successo, di correre in sostegno alla Germania di Hitler. Poco dopo, Mandela, che si è laureato per corrispondenza, trova un posto come praticante presso lo studio di un avvocato. Incontra così il suo primo amico bianco. Sidelsky, il nostro capo, decise di offrire un'opportunità ad un uomo di colore. Un evento che, come si può immaginare, nel 1942 era insolito. Nelson e io abbiamo lavorato nello stesso ufficio per 2 o 3 anni. Eravamo seduti uno vicino all'altro e chiacchieravamo spesso. Insomma, siamo diventati amici, parlavamo dei nostri problemi. Quando il nostro capo, Sidelsky, gli diede un aumento, gli chiese: «Nelson, cosa farai con quei soldi in più?» E Nelson rispose: «Comprerò più candele e così studierò più a lungo la notte». Nel 1952 Mandela apre un suo studio, il primo mai aperto da un avvocato di colore in Sudafrica. Eppure, nei locali pubblici, continua a non avere il diritto di sedersi liberamente dove desidera. Leggi di nuova promulgazione dividono infatti la società secondo un criterio di razza, e alle varie razze è fatto divieto di mischiarsi. Con decine di movimenti d'opposizione, Mandela adotta una Carta delle Libertà che preconizza l'avvento di un regime democratico multirazziale governato dal popolo. Anche il Partito Comunista, che opera in clandestinità, sostiene la Carta delle Libertà. In piena guerra fredda, anche questo sostegno è il pretesto che serve al governo per arrestare tutti i membri dell'opposizione, tra cui, ovviamente, Nelson Mandela. La Drill Hall di Johannesburg era gremita all'inverosimile in occasione del maxi processo per alto tradimento contro lo Stato del Sudafrica. 152 persone, tra cui africani, indiani, neri del capo ed europei, sono state accusate di cospirazione contro il governo. All'esterno, migliaia di persone, in maggioranza africani, manifestavano il loro sostegno. La manifestazione è poi degenerata in sommossa. È un rituale che negli anni a seguire si ripeterà costantemente. Gli imputati vengono rilasciati per mancanza di prove. Giovane assistente sociale, Winnie, la sua nuova moglie, diventerà con il passare degli anni l'icona dell'ANC e l'incarnazione della sofferenza di un popolo. Sarà soprannominata la madre della nazione. Insieme avranno due figli. È il nuovo nemico di Nelson Mandela, Henrik Verwoerd, un tempo molto vicino ai gruppi giovanili filonazisti. Nel 1958, vinte le elezioni, introduce rapidamente l'apartheid, il nuovo nome del razzismo di Stato. La nostra politica, denominata con il termine Africans Apartheid, e molto spesso fraintesa, potrebbe semplicemente e forse più chiaramente essere descritta come una politica di buon vicinato, che tiene conto delle differenze esistenti tra le persone. I neri vengono forzatamente trasferiti nei quartieri a loro riservati, le cosiddette township o municipalità. La ragione ufficiale, per la verità assai debole, è che in questo modo verrà offerto loro un ambiente migliore in cui vivere. A tutti i neri viene fatto obbligo di portare costantemente con sé un lasciapassare che ne giustifichi la presenza nel luogo in cui si trovano ogni qualvolta venga richiesto. A questo punto scoppia la violenza. Dappertutto. È un dramma inevitabile e porta un nome: Sharpeville. Le dimostrazioni contro la politica di apartheid del governo sudafricano deflagrano in scioccanti episodi di violenza a Sharpeville. Migliaia di persone sono scese in strada davanti alla stazione di polizia, in segno di protesta contro le nuove leggi che impongono ad ogni africano di portare sempre con sé un lasciapassare. La folla non si disperde, continuando a lanciare sassi contro la polizia, che a sua volta apre il fuoco. In due giorni sono state uccise dalle 50 alle 100 persone, mentre i feriti sono migliaia. Proteste giungono da tutto il mondo, ma le condizioni che hanno portato alla tragedia di Sharpeville perdurano immutate. La tragedia di Sharpeville fu una delle peggiori atrocità mai verificatesi negli anni dell'apartheid, in particolare a partire dagli anni 60. In poche settimane la storia subisce una forte accelerazione. Il partito di Mandela, l'ANC, è messo al bando, viene proclamato lo stato d'emergenza. Quando dall'Inghilterra si levano sempre più forti le voci che stigmatizzano l'apartheid, il Sudafrica esce dal Commonwealth e si proclama Repubblica Indipendente. Quale sarà il nostro futuro? Guardate, voglio essere certo di non essere frainteso. Io vedo la nostra Repubblica come una Repubblica formata da popoli uguali, siano essi di madrelingua inglese o Afrikaans, che governino insieme l'eredità del Sudafrica bianco. Mandela è rimasto solo a combattere con i nuovi fascisti. Non ha speranze, non gli resta che entrare in clandestinità. Un giornalista inglese riesce a scovarlo. È la sua prima intervista. Gli africani vogliono, pretendono il diritto di voto sulla base di un semplice concetto: un uomo, un voto. Vogliono l'indipendenza politica. Nel nostro programma abbiamo più volte chiaramente detto che il Sudafrica è un paese formato da una moltitudine di razze e che in Sudafrica c'è posto per tutte queste razze. Se il governo di Verwoerd non dovesse acconsentire alle sue richieste, ritiene che nell'immediato futuro si possano verificare manifestazioni di violenza? Molti temono le reazioni del governo rispetto alla decisione di rimanere nelle nostre case. Potrebbe arrivare un ordine di mobilitazione generale, oppure la distribuzione di armi alla comunità dei bianchi, o l'arresto di migliaia di africani. Benché da parte nostra si sia chiaramente dichiarato che questa campagna si sarebbe svolta con metodi ed intenti assolutamente pacifici, riteniamo ormai chiuso questo capitolo. Affermando che il capitolo della non violenza era chiuso, Mandela intendeva dire che si sarebbe passati all'uso delle armi. Ma una delle condizioni fondamentali di questa nuova fase della lotta era, come diceva Mandela, quando metto le bombe, nessun essere umano deve essere colpito. La nuova campagna di sabotaggi scuote il regime. Mandela lascia il paese per cercare appoggi all'estero. Il Sudafrica fa parte del blocco occidentale. In piena guerra fredda, gli aiuti gli vengono offerti dai paesi socialisti: Unione Sovietica, Algeria, Cina, Tanzania, Cuba. In clandestinità si organizzano in Africa campi di addestramento militare in cui confluiscono in breve tempo migliaia di volontari. Appena rientrato in Sudafrica, Mandela viene arrestato. Accusato di aver lasciato illegalmente il paese e di incitazione allo sciopero, si presenta davanti ai giudici indossando il costume tradizionale Xhosa. Mandela decise di difendersi da solo e si presentò davanti alla corte indossando il costume tradizionale della sua terra. La sua arringa è divenuta celebre. Come mai io, un nero, sono chiamato a comparire davanti a un bianco? Il pubblico ministero è un bianco, la corte è formata da bianchi. Ci deve essere qualcosa di sbagliato. Mandela aveva un aspetto meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Assomigliava a Dingane, il grande guerriero. Lo ricordo in piedi davanti alla corte che lo condannò a 5 anni di carcere. Era il 1962 e tutti noi eravamo terribilmente arrabbiati, ma poi dissi a me stessa: 5 anni non sono poi così lunghi. Lui uscirà prima del termine dei 5 anni e la lotta continuerà. Nelson Mandela non trascorrerà 5 anni in prigione. Vi rimarrà per 27. Quando riconquisterà la libertà sarà un uomo di 71 anni. Dopo la condanna all'ergastolo, ha perso ogni speranza? Io non perderò mai la speranza e neanche il mio popolo la perderà. Infatti, intendiamo continuare il nostro lavoro. Insieme a 6 compagni dell'ANC, Mandela viene deportato a Robben Island, un penitenziario circondato da acque infestate di squali al largo di Città del Capo. Robben Island è un luogo tristemente famoso, dove da secoli si muore. Per il clima, per la mancanza di cure e più ancora a causa dei lavori forzati e delle torture a cui vengono sottoposti i deportati. Nel 1982, dopo 18 anni, Mandela viene trasferito nella prigione di Paulsmoor, alla periferia di Città del Capo. All'estero, intanto, si moltiplicano le manifestazioni contro il Sudafrica, governato con pugno di ferro da Peter Willem Botha, salito al potere nel 1978. Il mondo intero continua a chiedere la liberazione di Mandela. Nei confronti del Sudafrica viene messo un atto di embargo economico. Il regime non ha più scelta. Nelson Mandela entra in carcere all'età di 46 anni, quando esce ne avrà 71. Sua madre e suo fratello saranno morti, i suoi 5 figli diventati grandi e sua moglie è diventata un'estranea. Su Mix 24 con la storia di Mandela torniamo subito dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Nelson Mandela. Il 1990, le pressioni internazionali sul governo sudafricano di de Klerk per la liberazione di Mandela si fanno sempre più forti. Sono disposto a rilasciare Mandela purché dichiari di rinunciare alla violenza come strumento di lotta per il raggiungimento dei suoi obiettivi politici. Per la prima volta dopo 21 anni, i sudafricani possono ascoltare un messaggio di Nelson Mandela. È la figlia a leggere pubblicamente una lettera con cui il padre rifiuta la proposta del presidente Botha. Mio padre dice: solo gli uomini liberi possono trattare. I prigionieri non sono in condizione di fare trattative. Dal momento che né io né la mia gente siamo liberi, non posso e non voglio fare accordi. La libertà della mia gente e la mia non possono essere separate. Ritornerò. Amantla! Proprio nel momento in cui i negoziati raggiungono i massimi livelli istituzionali, Botha, malato, viene sostituito alla guida del Sudafrica da Frederick de Klerk, un professionista della politica, già più volte ministro. Siamo la nuova gente del nuovo Sudafrica. Qualche settimana dopo, con il consenso di Mandela, dopo 26 anni di prigione, i suoi principali compagni di lotta vengono liberati. 2 mesi dopo, Mandela si reca nel palazzo della Presidenza della Repubblica, dove lo attende de Klerk. Trascorremmo la serata parlando del più e del meno, senza toccare nessun argomento sostanziale. Ci stavamo studiando reciprocamente. L'impressione fu quella di non trovarmi davanti ad un uomo amareggiato, il che mi sembrò una cosa straordinaria. Questa assoluta mancanza di amarezza è una delle cose più straordinarie che notai in Mandela. Mandela fa ritorno alla sua prigione dorata senza aver ceduto su un punto di primaria importanza. Nessun negoziato è possibile, sostiene, senza l'abolizione totale dell'apartheid. Ma de Klerk è un uomo pragmatico, capisce che questa è la sua occasione per entrare nella storia. La messa al bando dell'African National Congress, del Pan-Africanist Congress, del Partito Comunista Sudafricano e di un certo numero di organizzazioni secondarie è stata abolita. La nostra vittoria è ormai certa, la nostra vittoria per ogni singolo sudafricano, neri e bianchi, finalmente liberi e finalmente uniti. 11 febbraio 1990, Nelson Mandela esce finalmente di prigione, ha 71 anni e l'avvenire del Sudafrica sulle sue spalle. Gli dissi: signor Mandela, è stato deciso che lei sarà liberato senza condizioni e che il rilascio avverrà l'11 febbraio a Johannesburg. E lui subito: ma è troppo presto, non voglio essere liberato l'11 febbraio. Gli chiesi perché non gradisse quella data. Perché ho bisogno di più tempo per prepararmi, mi rispose. E io: signor Mandela, lei e io dovremmo trattare in merito a molte questioni dopo il suo rilascio, ma la data della sua liberazione non è negoziabile. Ammonto in Africa! Io sono convinto che il futuro del nostro paese possa essere determinato solamente da una maggioranza che venga eletta democraticamente su una base non razzista. Lo stesso de Klerk è un uomo onesto. Con quella dichiarazione mi insegnò una cosa importante. Nel momento in cui ci si appresta a negoziare, bisogna dimenticare l'asprezza della battaglia e la durezza del nemico. Piuttosto bisogna dimostrare la propria fiducia nell'onestà dell'avversario. Due giorni più tardi, centinaia di migliaia di abitanti di Soweto, la periferia nera di Johannesburg, si radunano per festeggiare il ritorno di Mandela. Per 27 anni Mandela è stato per loro solo un nome. Ora, finalmente, quel nome avrà anche un volto. Dobbiamo chiaramente dimostrare la nostra buona volontà ai nostri compatrioti bianchi e convincerli con la nostra condotta e le nostre argomentazioni che il Sudafrica senza apartheid sarà un paese migliore per tutti. L'ANC continuerà la battaglia contro il governo fin tanto che la violenza dell'apartheid non sarà del tutto cessata. Tutti vogliono stringersi a Mandela. Tutti lo vogliono toccare, strappargli un sorriso o uno sguardo. Al suo arrivo a Soweto sono presenti anche Walter Sisulu e Ahmed Kathrada. Ma dietro a queste ore di felicità si celano altri drammi, questa volta di carattere personale. Mandela e Winnie si presentarono mano nella mano, ma il loro matrimonio era ormai finito. Quanto aveva sognato di tornare da lei. È difficile immaginare quale dolore fosse per lui quella separazione. Il dramma si è abbattuto su Mandela alcuni mesi prima. Sua moglie Winnie, insieme alle sue guardie del corpo e al suo vecchio amante, è coinvolta nell'assassinio di Stompi Moketsi, un giovane militante di 14 anni ucciso perché ritenuto, a torto, un informatore della polizia. Come moglie di Mandela, Winnie ha conosciuto il carcere, la violenza e il confino. Anche per questo Mandela le rimane simbolicamente fedele e la vuole accanto a sé nel momento della sua liberazione. Mandela catalizza l'odio dell'estrema destra, che non cela le sue simpatie per il nazismo. Improvvisamente la violenza troppo a lungo contenuta scoppia ovunque nel paese. Come se la liberazione di Mandela autorizzasse qualsiasi eccesso. Il Sudafrica è ormai sull'orlo della guerra civile. E Mandela, per arrestarla, non può usare altro che le sue parole. Ammonto mio messaggio a coloro che sono coinvolti in questa guerra fratricida è questo. Prendete i vostri fucili, i vostri macete e i vostri coltelli e buttateli in mare. L'entusiasmo dei giovani per Mandela travalica le frontiere del paese. Mandela offre all'Africa l'immagine di una fierezza che l'Africa stessa forse non ha mai usato mostrare prima d'ora. Altri al suo posto si sarebbero lasciati inebriare dal successo e avrebbero considerato la vittoria un fatto acquisito. È abbastanza evidente che il governo non è ancora pronto ad incontrarsi con noi, ma questo non significa che noi siamo disposti a fare concessioni di alcun tipo al governo. La battaglia di Mandela contro l'apartheid è tutt'altro che conclusa. È una battaglia che durerà ancora per molti anni. Ogni punto veniva trattato e discusso senza prese di posizione pregiudiziali. I soli punti per noi irrinunciabili erano i principi della dignità umana e del pieno diritto di voto. Su questo non si poteva scendere a compromessi, ma su tutto il resto si poteva trattare. Il governo chiede a Mandela di rinunciare alla violenza. Mandela rifiuta, ma dà prova di una straordinaria capacità di comunicazione, rivolgendosi agli Afrikaner nella loro lingua. L'effetto mediatico è straordinario. Vorrei rassicurarvi in merito al fatto che gli Afrikaner non hanno nulla da temere da parte dell'ANC. Questa è sempre stata la nostra politica. Devo dirvi che 27 anni fa, quando andai in prigione, non avevo diritto di voto. Adesso, a distanza di 27 anni, non ho ancora diritto di voto. E ciò è dovuto al colore della mia pelle. La storia vacilla. L'estrema destra è sempre più intimidatoria e minaccia di far fallire la transizione democratica. De Klerk gioca il tutto per tutto. Organizza un referendum sul proseguimento o meno dei negoziati con l'ANC. Saranno le ultime elezioni in Sudafrica in cui solo i bianchi hanno diritto di voto. Il 68% dei votanti vuole il proseguimento dei negoziati. Signore e signori, questo giorno passerà alla storia come una delle svolte più importanti nella storia del Sudafrica. Oggi abbiamo chiuso il libro sull'apartheid. Più di 2 anni dopo la sua liberazione, Mandela sembra essere finalmente vicino ad un accordo. Ma ecco che il sangue torna a scorrere tra la sua gente. A farlo scorrere sono altri neri, i neri dell'Inkatha, il partito degli Zulu, l'etnia più numerosa del Sudafrica e tuttavia minoritaria all'interno dell'ANC. Il loro capo, Buthelezi, è pronto a tutto pur di non lasciare a Mandela la guida del paese, anche a scatenare una guerra con l'ANC. I morti saranno migliaia. L'Inkatha di Buthelezi lavorava col governo dell'apartheid. Gli uomini del suo partito venivano addestrati dal governo per compiere atti di violenza al fine di far crescere la tensione nel paese. La battaglia per la pacificazione del Sudafrica è ancora lunga. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Nelson Mandela. Torniamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24 con la storia di Nelson Mandela. È il 1990. Mandela, da uomo libero, continua la sua battaglia contro l'apartheid. Alla nostra gente, le ragioni per cui continuiamo a dialogare con un governo, con un regime che sta trucidando la nostra gente, che sta facendo una guerra contro di noi. Mandela indice uno sciopero generale. In tutte le città del paese organizza impressionanti dimostrazioni di forza a cui partecipano pacificamente milioni di persone. Ora più che mai, il popolo è con lui. Il governo non cede ancora. E allora, come ritorsione, l'ANC abbatte con la violenza le frontiere del Bantustan del Ciskei, uno stato fantoccio riservato ai neri secondo le leggi dell'apartheid. La mattanza che ne consegue, spaventosa, non serve a cambiare le cose. È chiaro che bisogna tornare alla ragione. Riprendono i negoziati sulla transizione democratica. Ci presentammo al tavolo dei negoziati e dicemmo: stabiliamo una data per le elezioni. Facciamole il 27 aprile 1994. E loro, ma non siamo ancora giunti ad un accordo. E noi, se non lo facciamo subito, il nostro paese esploderà. Prendiamoci le nostre responsabilità e chiudiamo il negoziato. E così facemmo. Alcuni mesi prima delle elezioni, Mandela riceve insieme a Frederick de Klerk il premio Nobel per la pace. Ormai nulla potrà più intralciare il processo di pace. Mandela ha 76 anni, eppure affronta la sua prima campagna elettorale con l'energia di un ragazzo. Le elezioni del 94, quelle stesse elezioni che nelle previsioni di tutti sarebbero state accompagnate da un bagno di sangue, rappresentarono sorprendentemente l'evento più pacifico che si fosse mai verificato nel nostro paese. Con oltre il 60% dei suffragi, Nelson Mandela diventa il primo presidente di un Sudafrica democratico e multirazziale. Io, Nelson Rolihlahla Mandela, giuro di essere fedele alla Repubblica del Sudafrica e che Dio mi aiuti. Mai, mai e mai più dovrà accadere che questo splendido paese veda nuovamente uomini oppressi da altri uomini. Appena eletto, Mandela sorprende tutti con l'annuncio della composizione del suo nuovo governo. Fedele alla sua tattica e anche per poterli sorvegliare meglio, Mandela assegna un ministero a tutti i suoi antichi nemici. Ci sono tutti. De Klerk alla vicepresidenza, Buthelezi, il capo Zulu, agli interni e all'energia addirittura a Pik Botha, l'ex ministro degli esteri del governo dell'apartheid. Mandela presiedeva spesso le sedute del governo con l'atteggiamento di un vecchio saggio, sempre pronto ad ascoltare quello che dicevano gli altri. E se non era d'accordo con qualcuno, lo faceva presente, ma sempre con parole e modi gentili e cortesi. La presidenza di Mandela è un periodo straordinario. Il mondo intero gli rende visita. Posare per una foto con lui è un onore. Avere diritto ad un abbraccio è considerato un segno di familiarità. Ma la cosa più ambita è di averlo come guida in una visita a Robben Island. E lui si presta volentieri a tutte queste opportunità mediatiche, consapevole di incarnare l'immagine di un Sudafrica finalmente pacificato. Subito dopo l'elezione alla presidenza del paese, Mandela cominciò ad indossare queste camicie esageratamente sgargianti, che oggi vengono chiamate le camicie di Madiba. Gli dicevo sempre che indossava cose abominevoli e di pessimo gusto. E sa cosa mi rispondeva? Mi diceva: è davvero, davvero buffo, visto che a dirmelo è un uomo che si presenta in pubblico con una sottana. La mattina leggevamo i giornali ed è così che abbiamo saputo che una vecchia signora che viveva nel KwaZulu Natal, una delle nostre province, vendeva il latte per permettere al figlio di una sua vicina di frequentare la scuola. Mandela telefonò alla signora e la invitò a pranzare con lui. E così la vecchia signora sedette al tavolo presidenziale e mangiarono insieme. Erano queste le persone che Mandela ammirava. Ed è questo che fa di lui una persona così unica. Come tutti i grandi strateghi, Mandela non si trova mai dove ci si aspetta che sia. Johannesburg, 24 giugno 1995, finale della Coppa del Mondo di Rugby. Il Sudafrica affronta la Nuova Zelanda. Eravamo negli spogliatoi quando sentimmo bussare alla porta. Quando la aprimmo, vedemmo entrare Mandela. Nessuno sapeva che sarebbe venuto e nessuno si aspettava di vederlo con il simbolo dello Springbok sul petto. Quando si girò, vidi il mio numero 6 sulle sue spalle. Quell'incontro per me fu un'emozione enorme. Benché il rugby fosse il gioco dell'apartheid e benché Mandela fosse un nero, decise per l'occasione di indossare la maglia della squadra nazionale e di fare il tifo per il Sudafrica. Era convinto che con questa mossa avrebbe conquistato la simpatia di molti bianchi. Mandela è stato un grande comunicatore, un vero genio in questo campo. Il popolo sudafricano vuole che il passato sia reso noto, affinché non si ripeta mai più. E non vuole questo per vendetta, bensì per procedere unito verso il futuro. Non si tratta, insomma, di decidere se il passato debba o non debba essere rivelato, quanto garantire che venga reso noto per favorire la riconciliazione e la pace. Ma il desiderio di Mandela di riconciliazione va ben oltre i limiti della giustizia. Nel 1996 Mandela crea una commissione denominata Verità e Riconciliazione, affidandone la presidenza a Desmond Tutu. Per ben 2 anni migliaia di vittime parleranno con i loro carnefici e alcuni li perdoneranno, evitando ai criminali decine di anni di carcere. Quando la gente gli diceva: «Oi, oi, è facile per lei parlare di perdono. Cosa ne sa lei della sofferenza?» Mandela rispondeva con 2 parole: 27 anni. Una volta predisposta alla riconciliazione nazionale, Mandela tutela la sua azione dotando il paese di una delle costituzioni più democratiche del mondo. Per lui, infine, giunge il momento di occuparsi della sua felicità personale. Il giorno del suo 80° compleanno, Mandela sposa Graça Machel, la vedova dell'ex presidente del Mozambico. Alcuni mesi più tardi, Mandela decide di non ricandidarsi per un secondo mandato presidenziale e di ritirarsi dalla vita politica. Ogni periodo storico è caratterizzato da obiettivi diversi rispetto al progresso e alla leadership di una nazione. Inoltre, nessun uomo è un'isola. Io appartengo a una generazione di leader per i quali la conquista della democrazia ha rappresentato l'obiettivo primario. Io sono il prodotto di tutti quegli uomini che ovunque nel mondo hanno nutrito il sogno di una vita migliore per l'umanità. Io sono un prodotto dell'Africa e del suo antico sogno di rinascita. Un sogno che oggi può diventare una realtà affinché tutti i suoi bambini possano giocare al sole. La lunga marcia continua. Mandela lascia la presidenza del Sudafrica nel giugno 1999. X24 torna lunedì in diretta come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.